il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di un grande artista italiano, un volto indimenticabile del nostro cinema. Bene, nonostante questa persona sia una grande notorietà, legata anche a ruoli rimasti nella memoria di tutti in televisione, è proprio un'icona della nostra recitazione italiana di quel periodo, però di lui non si conosce questo aspetto incredibile, cioè che lui da italiano è considerato uno dei padri fondatori del cinema e teatro brasiliano moderno. Sto parlando di Adolfo Celi. Sono il professor Sassaroli, ex medico chirurgo di chiara fama. Essendomi accorto in tempo di essere rincoglionito, più o meno come lor signori, ho deciso di alienare la clinica di mia proprietà ed ho acquistato questa ignobile baracca, di cui sono quindi il nuovo proprietario, nonché direttore. Molte cose devono cambiare qui dentro, e sarò inflessibile. Intanto la chiave del portone a tutti, ma a condizione che nessuno ritorni prima delle 3 di notte. Divieto di ubriacarsi meno di 3 volte alla settimana. Divieto di cessare gli schiamazzi notturni prima dell'alba. Eh sì, il professor Sassaroli di Amici miei, con quella faccia dura alla quale lui contrapponeva invece questa voglia incredibile di scherzare con la vita. Una delle maschere più divertenti, meglio riuscite del nostro protagonista di oggi, che è stato un uomo dalla carriera straordinaria, 1000 ruoli, regie importanti, partecipazioni a pellicole delle più varie, passa dal neorealismo alla carriera internazionale fino al prodotto più hollywoodiano di tutti, cioè un film della serie di James Bond. Parleremo anche di questo, un uomo dai 1000 interessi, dai 1000 talenti, molto diverso dall'immagine da cattivo che spesso ha interpretato al cinema. Insomma, ve lo vogliamo raccontare dall'inizio. Adolfo Celi nasce in una casa del centro di Messina il 27 luglio del 22, famiglia benestante. È il padre Giuseppe, che arriva a diventare prefetto del Regno d'Italia, sembra quasi uno dei ruoli che poi reciterà il figlio, legato alla famiglia, adora i figli, lui cresce in un clima di serenità. Sentiamo il ricordo della sorella di Celi, Flavia, in un'intervista tratta dal documentario Adolfo Celi, un uomo per due culture, di Leonardo Celi, il suo figlio, il figlio di Adolfo. E che peraltro Leonardo sarà nostro ospite tra poco. E papà Giuseppe era l'uomo più buono del mondo, era un gran signore. Io non ricordo, con mia madre andavano perfettamente d'accordo, sono stati una famiglia unita, perfetta. E così la famiglia, seguendo la carriera paterna, si trasferisce di città in città. Vanno prima a Grosseto, poi a Cremona, poi a Padova. E come spesso capita, quella che diventerà la passione di Adolfo nasce per caso. C'è un regalo di un papà che è attento e affettuoso. Sentiamo ancora la sorella. Mio padre l'ha sempre dato, l'ha sempre civiziato abbastanza, non gli negava mai niente, un po' per carattere suo, e gli comprò prima la bicicletta, allora poi gli comprò, poi alla fine la cinepresa. Era una delle prime che c'erano allora, non ce n'erano tante, costavano un sacco di soldi, e lui con quello ha preso anche papà e mamma. Eh sì, perché Adolfo si affeziona a quella cinepresa, comincia a riprendere tutto, i momenti familiari, le vacanze, i viaggi, insomma, un gioco da ragazzo sta diventando una strada per il futuro, che inizia veramente nel 41, quando Adolfo, che ormai ha 19 anni, si iscrive all'Accademia di Arte Drammatica di Silvio D'Amico, che in quegli anni è il meglio che ci sia in Italia per chi voglia intraprendere un mestiere nella recitazione o nella regia. Nel suo caso il corso è quello di regia, e tra i compagni d'accademia di Adolfo Cieli ci sono Luigi Squarzina, il grande Luciano Salce, col quale poi insomma incrocerà gli obiettivi anni dopo, e conosce Gassman, che è suo coetaneo, diventa amico di Renato Baldini, un volto dimenticato del nostro cinema. E insomma, Monicelli, e un altro dei presenti, ricordava quel gruppo con al centro Cieli. C'era tutta una combriccola di attori, registi, esordienti, scrittori di cinema. Credo di averlo conosciuto attraverso Steno, che era amico suo prima di me. Era molto spiritoso, molto divertente, molto avventuroso, simpatico. E lì, in quel periodo, bisogna innovare. L'Accademia è improntata proprio a questo, alle innovazioni. D'altra parte, gli attori che ci sono in quel momento nel panorama nazionale hanno poca voglia di rischiare, di sperimentare. E questo gruppo, invece, le cose le cambierà veramente. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando Adolfo Cieli, un uomo con una immagine che è completamente all'opposto rispetto ai ruoli interpretati, soprattutto quando fa il cattivo, perché invece, a detta di tutti quelli che l'hanno conosciuto, era una persona gentile e divertente. Bene, e il pubblico non sa che in Brasile è considerato tra i fondatori del cinema, del teatro brasiliano moderno, mentre da noi è soprattutto legato al ruolo di Sandokan, nel mio caso di Petrosino, per questioni di immagini di infanzia, ma soprattutto lui è il professor Sassaroli di Amici Miei. E l'abbiamo lasciato agli inizi degli anni 40, all'Accademia di Arte Drammatica di Silvio D'Amico, dove sta formando il suo talento. E infatti, finiti gli studi, comincia a lavorare in regie teatrali a Roma, a Milano, mette anche in piedi una rivista dove, tra l'altro, esordirà un giovane Alberto Sordi, e la regia sembra proprio la sua strada, e i primi lavori cominciano a metterlo in luce come una grande promessa. Però nel 46 viene chiamato anche a fare l'attore, arriva il suo primo film, siamo nel pieno del neorealismo, e lui viene scritturato da Luigi Zampa per Un americano in vacanza. L'anno dopo indossa ancora i panni di un militare statunitense in Campo 119 di Pietro Francisci, e nel film, tra l'altro, lavora anche Aldo Fabrizi. What the hell is going on here? Cosa fai? Vede, sergente, stiamo facendo un gioco sportivo. Sport? Sì, sportivo. Dei schiaffi. Schiaffi? Sì, come si dice? Slap. Vuoi vedere? Voglio facciamo vedere come si svolge il gioco. Guardi. Let's have it. Slap, ok. Mettete sotto. Guardi, sergente, come si svolge il gioco. Insomma, la sua comincia a essere una faccia che non si dimentica, e gli chiedono altri film, il primo ruolo da protagonista nel 47 con Proibito rubare di Comencini. Non è più un militare, ma è un prete che per caso scopre la difficile realtà degli scugnizi a Napoli. Però il film che gli cambia la vita è un altro, non perché gli regala un grande successo, ma perché per girarlo dovrà andare in Sud America. Aldo Fabrizi, con cui ha lavorato nei suoi primi film, lo coinvolge nel cast di Emigrantes, un film diretto, interpretato dallo stesso Fabrizi, e per i cinefili un film nel quale c'era anche Ave Ninchi. La storia, realizzata in Argentina, racconta la difficile vita di quegli italiani che, lasciata l'Italia, si trasferivano in Sud America in cerca di fortuna. Professione? Falegname. Carpintero. Nazionalità attuale? Come attuale? Di che nazionalità è? Attualmente sei italiano, voi. Nome? Adele Petrucci in Bordone. Nome del padre? Sì, del Fiore dello Spirito Santo. Ma che stiamo chiedendo, se per signor della Croce? Bordoni Giuseppe. Bordoni José. È il nome mio. Attorno allo castello dei Garini. Cieli, specializzato in regia, in particolare regia teatrale, lavora invece molto come attore al cinema. Sembra un cambio di direzione, ma per saperne più abbiamo con noi il figlio del grande Adolfo Cieli, Leonardo, anche lui regista, autore di un documentario sul padre. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, buongiorno. E proprio intanto volevo parlare proprio di questo, del fatto che gli inizi di tuo padre furono dedicati alla regia, soprattutto a quella teatrale, dopodiché come dire, si innamorò di più della recitazione. Come mai, secondo te? Perché è emersa un altro aspetto della sua artisticità? Ma lui all'inizio, uscito dall'Accademia, ha cominciato a fare l'attore nei primi film del dopoguerra, nel neorealismo, sì. Due o tre film, ma ha sempre fatto regie di teatro, è sempre stato un regista di teatro fondamentalmente, quindi ha fatto due o tre film, ma comunque faceva le sue regie di teatro e poi dopo è andato in Brasile e lì ha fatto solo regie di teatro per 15 anni. E alla fine delle riprese lui si fa un viaggio, si sposta in Brasile e si innamora di quella terra, comincia a rimandare il rientro in Italia, poi si trasferisce a San Paolo. È un periodo in cui il cinema e il teatro brasiliano sono peraltro fermi al secolo precedente, con stili e tecniche ottocentesche. Bene, un gruppo di industriali del posto vuole rinnovare l'industria culturale. Celi è il proverbiale uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto. È un periodo di grandi successi, di soddisfazioni, perché con la sua cultura europea, ma con la sua voglia di fare, introduce nuove tecniche di regia, di recitazione, di allestimento teatrale, passa di successo in successo, crea un teatro stabile, il Teatro Brasileiro di Commedia, una compagnia di teatro di prosa, addirittura una società di produzione cinematografica, la Vera Cruz. Insomma, fa fortuna in Brasile. L'obiettivo è quello di importare le tecniche produttive hollywoodiane per rinnovare il loro cinema, il cinema brasiliano. E lui dirige anche due film che oggi sono considerati dei veri e propri classici della cultura cinematografica brasiliana: Caixara del 1950 e poi Tico Tico No Fuba del 52. E Adolfo Celi in Brasile ci rimarrà a lungo, 15 anni, anche perché nasce una storia d'amore con Tonia Carrero, che è un'attrice brasiliana che diventerà sua moglie nel 51 e lo rimarrà per ben 12 anni, fino al 63. Lui è considerato oggi uno tra i principali registi del Brasile. Tutt'oggi, agli inizi degli anni 60, esaurisce l'esperienza sudamericana, assente quella che loro chiamano la saudade, al contrario però, insomma, è pronto per tornare in Italia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Adolfo Celi, volto indimenticabile del cinema, del teatro e soprattutto della televisione italiana di un periodo storico lungo e ben preciso, però stiamo raccontando il suo colpo d'ala, quello che lo portò in Brasile a rivoluzionare il teatro e il cinema locali, diventando uno dei registi più importanti di quel paese. Però Celi è stato importante anche per noi, per il suo paese d'origine, per l'Italia, dove ha vissuto un pezzo importantissimo della sua carriera, interpretando ruoli che non dimenticheremo mai. Lui la racconterà, la sua quindicinale esperienza in Brasile, nel suo ultimo lavoro da regista, il film L'Alibi, diretto nel 69 insieme ai vecchi amici Vittorio Gassman e Luciano Lucignani, un film strano in cui i tre attori sostanzialmente raccontano la propria storia personale. La musica è di Morricone e una delle canzoni della colonna sonora è cantata da Sergio Endrigo. Chi parla? Chi? Ehi, non riconosci più la voce? Sono io! Che c'è di nuovo? Vittorio! Ti telefono per dirti che fra qualche giorno tornerò in Italia. Torni? Ah, era ora, direi. Bene, verremo in gruppo a festeggiarti all'aeroporto. Ma ti riconosceremo? Ma certo, il naso è rimasto lo stesso. Senti, come sei? Sei cambiato? Sei felice? Vi dirò tutto. Ho 15 anni di vita da raccontarvi. Senti, io sono momentaneamente sposato. E tu? Momentaneamente scapolo. Ma dimmi di te. Aspetta qualche giorno, accidenti. Che cosa posso dirti al telefono? Senti, tu porti gli occhiali? Sei un po' rincoglionito, insomma? Io sono agile e lucido come una gazzella. Prima di rientrare stabilmente in Italia, Celi prende parte a due film importanti, due film internazionali. Il primo è L'Uomo di Rio e poi è La Volta del Ruolo del Cattivo in un film di 007, Thunderball, Operazione tuono, una parte che gli regala una fama internazionale e che in qualche modo facilita il suo ritorno in Italia. Naturalmente lo scenario cinematografico e non che trova al rientro è molto diverso da quello che ha lasciato e quindi comincia a specializzarsi nei ruoli di cattivo quasi da caratterista, ruoli in film d'azione, nei western, lavora anche nelle commedie e ha sempre o la parte del potente o quella del malvagio. Ma poi nel 75 lui sviluppa una maschera della commedia all'italiana, una maschera di qualità che rimarrà nella nostra memoria per sempre perché prende parte al primo capitolo di un film fortemente voluto da Pietro Germi che non ne vedrà l'uscita a causa della sua malattia, quella che lo porterà alla morte. Il film è ovviamente L'immenso Amici miei, diretto da Monicelli, con Celi che è il professore Sassaroli. Ce lo gustiamo ancora qualche secondo nello scherzo del vedovo al cimitero in cui la vittima è un giovanissimo Alessandro Haber. Ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. È un parente di Crotone? Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa? Ma scusi, ma lei? Ma lei chi è? Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più carnalmente. Te più spiritualmente, Paolo. Ma cosa sta dicendo? Io ho un unico desiderio ormai. Diventare tuo amico. E voglio invecchiare accanto a te. Nel ricordo della nostra adorata Adelina. Sposa e amante impareggiabile. Impareggiabile? Impareggiabile, troia! Io non riesco a non ridere di fronte a questa scena. Del rapporto di Celi con il suo personaggio torniamo a parlare proprio con Leonardo, il figlio di Adolfo. Leonardo, tuo padre è uno di quei casi in cui il carattere della persona non corrisponde all'immagine che viene passata attraverso i ruoli interpretati. Anche Sassaroli, che non è un cattivo nel vero senso della parola, ha però quell'aria austera e cinica che non corrisponde al vero carattere di tuo padre, giusto? Sì, assolutamente. Sì, lui era molto buono, molto generoso con tutti, era un vero signore siciliano d'altri tempi. E quindi spesso era esattamente l'opposto di quello che tutti avevano, l'immagine che tutti avevano di lui, perché magari sono altri attori come Sordi, come Manfredi, che sono un po' il personaggio che sì, nella vita e nella certo. Lui era completamente diverso da questo ruolo, insomma, da questa immagine, diciamo, era uno molto buono e generoso, sì. E vedi, al punto che lui, secondo me, tocca proprio l'apice con il professor Sassaroli, nel quale lui riesce a avere appunto quest'area, questa doppia vita di questo professore, no? Che è, lo dico per i più giovani, un professore apparentemente serissimo, un luminare anche di successo, anche ricco, che fonda tutto il suo successo sulla credibilità e che poi invece, assieme ai suoi amici storici, dà vita a burle, a scherzi, cioè è una persona completamente diversa e devo dire che, ecco, tu come ricordi quella doppia vita cinematografica del professor Sassaroli, quindi di Adolfo Celi? Ma lui era anche questo, legato a questo ruolo, era molto legato, gli faceva piacere perché Amici miei era una commedia brillante, era una commedia intelligente, era la madre di tutte le commedie. Lui la definiva un'isola di qualità rispetto a un mare di commedia all'italiana un po' sì. Beccera, insomma. Aveva ragione. Merito di Monicelli, di Pietro Germi che aveva comunque, era lui che doveva fare questo film. E quindi lui era, gli piaceva molto, era legato a questo ruolo di Sassaroli, di questo professore, geniale, di questo geniale. Medico barone di qualche... certo, sì. Proprietario di cliniche, di ville. Era uno specchio dei tempi, poi era sì. Un fatto anche generazionale, era una generazione di quarantenni, cinquantenni che volevano rimanere giovani, con certo, i figli, in quel periodo erano più seriosi. E quindi questa era una cosa che piaceva molto a tutti, sicuramente, sì. Leonardo, ti ringrazio infinitamente e noi continuiamo a raccontare di tuo padre, cioè di Adolfo Celi. Ciao, grazie Leonardo. Grazie a voi, grazie. Ciao.

Si sente male, viene portato d'urgenza in ospedale, è un infarto. In scena, all'ultimo istante, prende il suo posto il vecchio amico Vittorio Gassman e Adolfo Celi muore poco dopo, lasciando la terza moglie, Veronica Lazzar, e i due figli, Leonardo, che abbiamo conosciuto, e Alessandra. Adolfo Celi adesso riposa nel cimitero monumentale della sua città natale, cioè a Messina. E quell'altro? Com'è finito là dentro? Era un traditore. Abbiamo dovuto eliminarlo. Beh, abbiamo pensato di salutarlo così, con quella scena meravigliosa, cinica, surreale del funerale del Perozzi, cioè il momento in cui si chiudeva Amici miei 1 e in cui i suoi amici, guidati proprio da Adolfo Celi, fingevano, continuavano la pantomima per la quale la vittima era un famoso delinquente internazionale. Insomma, una scena veramente fantastica, vi consiglio di andarlo a rivedere quel film. Una vita, quella di Adolfo Celi, piena di colpi d'ala, di virate improvvise, un uomo che è capace di cambiare rotta di colpo, di lasciare un successo, una sicurezza per qualcosa di nuovo. Fa due volte il percorso dall'Italia a Sud America, andata e ritorna. Tutte le volte cambia la sua vita e lascia un segno del suo passaggio. Insomma, una di quelle vite che noi amiamo proprio raccontare. Perché ognuno nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare quel colpo d'ala anche nel momento più imprevedibile. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it oppure venite a trovarmi, a trovarci nei miei e nei nostri social. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì.